Ma guarda un po', Simpson, Simpson, che strana è, Simpson, Simpson, questa famiglia che fa ridere anche me, Simpson, Simpson, forse perché, Simpson, Simpson, sappiamo che sono i Simpson, Simpson. Sognatori un po' maldestri, in momenti un po' sinistri, tutto questo serve a far di loro dei protagonisti. Il piccolo pan e dolcezza ti fa, ti giri un attimo, sai, la casa bruciata avrai. Oggi è Homer col vicino, sfida l'ultimo panino, strane cose accadranno quando i Simpson ci saranno. Ma guarda un po', Simpson, Simpson, che strana è, Simpson, Simpson, questa famiglia che fa ridere anche me. Sappiamo che sono i Simpson.